mio. Per un po' mi sono fatto Crystal, che frequenta solo gente ricca. Facevo finta per mettermi in vista, ma sono più da festa della birra. Per la bianca avevo il chiodo fisso, ci bruciavo i soldi dell'affitto. E stavamo a letto tantissimo, a guardare solo il soffitto. Molly invece sì che era affettuosa, la beccavo solo in discoteca. Alla moda era poliamorosa e limonavo barman e cassiera. Mary l'ho portata anche alla mamma, la vita la prende, va con calma. Ma ogni giorno una dopo l'altra ha iniziato a mettermi un po' l'ansia. Nella testa un cinema e penso, via col primo volo, via col vento. Ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no, fammi viaggiare così, come se faccia due passi dalla dogana. Tequila, sexo e marijuana, ma dame Messier, buena vista Fidel. Ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te. Na na na na na, quando viaggio con te. Ah, a mio frate invece nella vita mi è capitato innamorarmi al primo bacio. Poi però questa bionda al malto mi ha lasciato per qualcun alcol. Quanti guai con quella lì che mi portava ai live ogni settimana. Non dormi mai, la notte chiama, dice vuoi la Sprite, lo Xanax. Poi ho conosciuto lei, faceva la DJ dalla sera alla mattina, metteva tutti in riga, mi faceva toccare la cima, una vera eroina. E Albano le rovina. Nella testa un cinema e penso, via col primo volo, via col vento. Ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no, fammi viaggiare così, come selvaggio a due passi dalla dogana. Tequila, sexo e marijuana, madame Messier, buena vista Fidel. Ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te. Na na na na na, quando viaggio con te. Tu sei come ayahuasca, purifichi l'anima e la vita mia. Non mi dire che poi dopo un po' te ne vai. Non mi dire di no, fammi viaggiare così, come selvaggio a due passi dalla dogana. Tequila, sexo e marijuana, madame Messier, buena vista Fidel. Ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te. Na na na na na, quando viaggio con te.